su canale 23. Chi è avanti sulla 23? Oh, chi c'è su canale 23? Chi è avanti 1, 2, 3? Chi è? Matisio, tu sì. Sei troppo basso, non si capisce. Troppo basso, sì. Matisio, ma stai arrivando bassissimo nel radio. Non si capisce. Ah, per quello, vabbè, allora sì. Allora sì, hai ragione, allora. Ok, ma stai rientrando perché? Ah, a casa sì. Ho capito. No, va bene, no, è troppo basso con l'antennino. Troppo bassa la modulazione. Comunque, vabbè, dai. Poi è cupa, è molto cupa. Ho capito, è andato così, va bene. Santiago sì, mi stai arrivando, quasi. E la radio è Radio 2. È cupa, vabbè, comunque. Già, se parli vicino alla radiolina già capisco quello che dici, ma devi parlare molto vicino. Va bene, siamo qua. Prova Bacchini, prova. Comunità, prova Bacchisio. Bacchisio. Avanti di te, Bacchi, tu sì. Sì, è una differenza, beh, dammi a Bacchisio. Ah, pensavo che... Ciao, dottore. Buonasera. In PMR siamo con Graziano, PMR, e con Bacchisio. Ma Bacchisio sta facendo la prova. Ma anche su Graziano, dice che sta poi sul orecchio, che sta mettendo la pressione, vero? Ah, è duce, mai, oh. Tutto a duce si deve abolire. Ah, poi Giuseppe, vabbè, avanti, grazie. Buonasera Bacchi, un passo stai uscendo, cosa Ducato? Adesso bene sto uscendo. Adesso sì, adesso ti capisco meglio. Giulio. Nel PMR. Bacchi, adesso ti sento, dai, Bacchi. Buongiorno, Graziano. Lo so che c'è Graziano, ma non ha giurato andato in città. Già viene qua, da qua non lo buidi. Oh, yeah. Cervellino, sentito vai. No, oggi non è per niente l'ho sentito. Allora, sono Bacchi. Graziano mi saluta. Guarda che lo sento, se parli là lo sento io. Ce la sento un Bacchino, Tore, ce la sento Graziano Bacchi. Lo so, ma io ho il microfono che tanto no, mi fa capricci. Quindi fagli fino al ventro. Buttalo, Tore, buttalo. Spero sia Bacchi. Signor Bacchisio. Buonasera, Tore. Buonasera anche a lì. Non si sente, Bacchisio, non si sente. Cosa gli è successo? Non lo so cosa gli sia successo, non riesco a... Cosa guisamente, non so cosa sia successo. Bacchisio, attenzione Bacchisio. Sì, sono qua, tutto per te. Ehi, cosa ti è successo? Che stavo provando che l'apparato c'era in macchina. Ma lì lo stavi provando? Ma sempre non esce, così è. Oh, basso esce. Ma che cosa hai combinato? C'era in macchina, il Midland. Ah beh, lo stai attaccando qua e non esce. Ah beh, siamo Bacchi. Yeah, adesso mi accendo tu. Oh, ma funziona? Vedi un po', funziona? Sì che funziona adesso. Sta uscendo bene. Sì, bene. La voglia. Lasciamo questo adesso, la fanno riscaldare, questo è un bel po' fermo. Oh, si è abbassato, comunque ti si è abbassato un po' di cose, il segnale. Forse questo è il meno watt dell'altro, dell'Intec. Sicuramente c'è meno watt dell'Intec. Ma dovrebbe essere 4 watt. Se a 9,20 sì. Dove c'è 4 watt è un BD. 4 watt è un BD. Poco fa l'amico mi è entrato, non ho capito chi era Tole. Neanche io l'ho capito, non so se era coso. Boh. Avanti chi era prima? Non risponde Bacchi, siamo rimasti io e tu. Tu alle rose, c'è un ragazzino che stava chiamando. Oh, non lo so se era lui. Non so, mi pare che era da coso, da giusto. Boh. Io sono, vai, scusa se... Stavo rispondendo a coso, a Giulio. No, ma Battista ti sta dicendo se lo senti. Vieni avanti Battista. Sì, buona serata, avanti, mi ascolti. Ti ascolto, la radio è buona, buonissima. E il segnale è 7, 6 e mezzo là, quasi 7, modulato. Allora, la radio è perfetta. Allora, qua, no? Ha detto un cartello, prima che non è un microfono tuo, capriccioso, no? Tu mi hai messo, sei tu che sei un capriccio. Sì, ma è castigato, da battito, ma è castigato. Dice a Arisu, che faccio il microfono che non sta funzionando, e per quello sono acceso, però il microfono non funziona. Te l'ho detto, ma lui mi ha detto, dice, che non è il microfono capriccioso, sei tu. E quando schiaccio non esce la luce rossa, non esce. Catta, ha già provato, stasera oggi mi ha finito i capricci, quindi fa se fa così, andava a vedere. Mi prende se un bacchino. Capriccioso. E te giurai, Bacchi. Certo, se non funziona la gira, oggi no, non ne posso abbiare. Ma ci metto l'altro, ci metto. Andava così, ok. Ti prende giro, Bacchi. Io, quel piccolino come mio, non ce l'hai. Quello lì ci ho attaccato, ma sa già non funziona un microfono. Vedo se fa qualche cosa, non finirò il tastino, boh. Aspetta, c'era una cosa, come ti si chiama? Ma non mi mettere il nome. Franco! Ehi, ciao, io sono qua. Come c'è il microfonino portatile che stai usando, poi? No, nel coso, il PMR non vuol usare stasera il microfono, ma che c'ha però non fa. Ho capito, però ho detto, ma stai usando un portatile oppure un veicolare? Veicolare. Ah, chiappa, dai. Non metti mai il microfono se fermo. Una cosa strana, quelli lì sono, secondo che veicolare sono buoni, quelli lì non falliscono. Ah, non lo so, deve essere che non schiaccia bene il tastino e domani lo guardo, ci faccio tempo. Chiaro, che marca è? Boafen. Sì, del Boafen. No, è l'altra marca, il mio bacchino lo sa come ti si chiama. Che ho capito quali sono della probabilmente sono della Baufe, mi sembra quelli lì, non mi ricordo bene la marca. Sono solo piccolini, sono però funzionano bene, ci hanno rimesso come il telefono, la baionetta come il telefono. Sì. Ma ho capito quale sono. Dovrebbero essere buoni quelli lì lo stesso, dovrebbe funzionare bene. Però va per bene il microfono, poi qualche filo che si è attaccato, qualcosa. No, ci deve essere dal tastino che non schiaccia bene, boh. Oggi si è pigliata la maradia, si è pigliata, e vabbè, pazienza. Si è incendiato. No, si è incendiato il due. Che batteria c'ha quel? A corrente da 12. Ah, direttamente si prende la corrente dalla radio, va, ho capito. Va attaccato all'elementatore. Sì. No, pensavo che era il microfono che ci avesse una batteria. No, non hanno batteria qui, no. C'è termino rido, il microfono. C'ha i tastini, c'ha. Sì. Antone. Buonasera a tutti, belli scucitti. Bravo un'anima, la buonanima si è fatto vedere. Ah, già sono sempre qua. L'altro giorno sono stato in PMR, solo che non mi sentivano la metà, capito? Ho girato l'antenna, sentivo Luca, sentivo a Gio Maria, poi due passaggi, perché non mi hanno più sentito, non capisco il perché. Però io comunque vi sento benissimo, tutto lì. Sarà l'antenna che magari ha piaduto e va a vedere cosa ne so. XML, no, sto usando poco e niente, perché altro facendo il saltonecco e uso quello per la 27, poi già c'è il 2009, ogni tanto lo accendo. Meglio così. Fatti! Sentiamo Antonello, buonasera Antonello, bene scucciato anche per te. Cioè, sei ancora vivo, sì? A voglia che sono ancora vivo. Oggi è giubilato un poco di vento, c'era questo vento schifoso, per carità. Oh, Antonè, dimmi. Tu pensa che io prima li ascoltavo tutti qua, li ascoltavo tutti quanti, eh? Adesso non li ascolto neanche uno. Oh, ma chi c'è? Mi sto lasciando perché deve stare andando nella signora. Ci sentiamo dopo. 500 che non so se si è imbarcato acqua, ci riesce bene, però dicevo poca gente. Voglio metterci la X, quella piccolina, quella bianca, ma non che non ho metto la discola, direttamente faccio prima. Installo la discola e ho preso ad aprirlo. Ma chi? Ci sentiamo dopo, ok, ciao. Ciao, ciao, dopo. Ma mettici una X200, non sbagli, e senti tranquillo. Oh, quella cotta bianca, cioè, capito. Adesso domani mattina me la faccio la mia sorella che ce l'ha buttata in garage. A meno che non installo la c'è anche una discona che fa VU, e non è molto grande. Installo quella, gira gira e la provo. Piaccio il cavetto, quella del sta con la specie di bazooka che ho costruito, ci metto un paletto e piazzo quella e vediamo se esce bene. Sì, ma il discone, ah già, c'è quella che va anche in trasmissione, sì. Sì, quella che va in trasmissione, c'ha lo stiletto lungo un metro neanche, in acciaio, poi c'ha tutti questi radiali in orizzontale e gli altri sono a 35 gradi, una cosa del genere. Ma sono corti, non sono neanche lunghi, sono corti se no 60 centimetri. Sì, no, già lo conosco il discone, ma non mi ricordavo che c'erano le versioni, c'era quella che sono in ascolto e quella che andava in trasmissione. E prendo un basamento di cosa, di quelli di che si usano per lui in bagno per metterci gli asciugamani. Prendo quel basamento lì, lo smonto e lo piazzo nella finestra qua fuori. E così lo provo, cavo, vediamo se funziona. Se funziona bene quella, ne stacco quella lunga, allora è bianca e, cioè, e ci piazzo l'altra. Almeno riceva tutti quella verticale. L'altra al limite se la chiede qualche animatore gliela do, perché non ho nuova. Capito? Per la 433 non va bene, è troppo per la 144 è stazionale, non ne ha. Per il 430 va bene, però 433 nulla la va. Avanti Battini, un attimino che mi allontano, un secondino. Signor Franco, va benissimo. Anche io ho il discone, Antonio, me l'hanno regalato il mio cugino, però non so se sono per ascolto o anche in trasmissione. E al centro c'è uno stilo con la carica. No, questo senza carica, è uno stiletto lungo se non un metro, non di più. E poi c'ha tutti questi radialini in orizzontale a 90 gradi e poi gli altri sono 35, ma sono corti, saranno se no 50-60 centimetri, non di più. Hai capito? Adesso vedo di domani me la faccio dare così alla con la bazooka che ho costruito uso quel cavo lì e la provo, vediamo se esce bene. Se esce bene mi stacco quella grande e ci metto quella. Così la grande al limite se serve qualche rematura gliela vendo, non so. E nuova. Aspetta che guardo l'antenna per questo, se non sono sopra la testa. Apro la porta e guardo. Ehi. Ehi, cos'era quell'altra antenna che volevi chiudere? Quella lunga, quella bianca, già lo sai quella che ho piazzato, la X500, se la disco non funziona bene tenete quella lì, che cosa la uso a fare? Cioè per il PML non va bene, va bene solamente per le frequenze radioamatoriali e basta, capito? A PMR dovrebbe, perché non va bene la X500? Dovrebbe essere uguale. No, dicevo, cioè, in trasmissione esce bene, l'ho provata, in ricezione dicevo pochissimo, hai capito? Non è questione di cavo, tanto meno di PL, perché l'avevo anche pulita, cioè, l'avevo pulita tutta quanta. Per me è questione di antenna che non risuona perché è attaccata alla manta, va, capito? Quanto è? Carica centrale. Lo so che c'è la carica centrale, già l'ho visto, c'è due cariche con un condensatore che sono agganciate, l'ho smontata per pulirla bene, c'è un coso di rame, la bobina, poi c'è il condensatore, poi c'è un'altra bobina, già, l'ho tutta pulita l'altra volta e l'avevo piazzata, adesso voglio provare questa discona, vediamo se funziona molto meglio, ci metto quella e metto con l'altra, sto a perdere tempo, cioè tanto non è che uso la frequenza V, a me non me ne frega niente, mi interessa il PMR e basta. Siamo lunghi e corti, perché ne ha tre caricati corti da 40 cm, le altre sono in verticale, saranno lunghi un metro. No, quella che ho io è diversa. Allora, la di questa discona c'ha lo stiletto in acciaio lungo un metro, non di più senza carica, poi c'ha questi radialini in orizzontale e poi gli altri a 35 gradi, mi pare, sono 35-40 come gradi. Non sono neanche molto lunghi, capito? E invece poi c'ho anche la X30 giù, però la X30 mio cognato l'ha provata in VHF e dice che non funzionava, non andava, non so perché. Ti dava problemi di ricezione, aveva pensato sopra un tetto, dice artisti non pigliava nulla. Eppure usava il coso, aveva comprato due sospettitori per fare la porta, magari non riusciva a usarli lui, cosa ne so. Guarda, solo che quella vuole in alto, è libera, per andare bene. Ma tu la casa tua a me bene mi ascolti, che merda. Sì, io la casa mia ti ascolto bene, ma io con la direttiva ti ascolto benissimo, con la direttiva che ho è una bomba. Io un siluro quella, meno male c'è il motore, capito? Adesso è puntata la teloce, e quindi ti dovevi sentire per forza, molto più forte, perché sento tutta la teloce. E prima invece era puntata sempre a Monteoro, capito? Al ripetitore. Ecco. Ma io ho un comando di sia uscendo, un X di 200 uscendo, ed è una bomba, mi ascolta, va bene da tutte le parti, mi ascolta. E gli altri, solo sono io che non ascolto gli altri, perché non so se sono in zona negativa, come sono. Anche a me, cioè, fa la stessa cosa, la trasmissione esce benissimo, per dire. In ricezione però c'è un sacco di perdita, non so perché, forse magari perché è attaccata l'antenna alla mantova. Adesso voglio provare a fare la prova con quest'altra e ce la metto dall'altra parte del tetto, vediamo se... Perché con l'antenna della macchina, la Diamond, agganciata nel tetto, vediamo benissimo, parlavo con tutto Sassa e ascoltavo a tutti, anche quelli con l'antenna in gomma, capito? E c'era Giuseppe Leoncino, c'era a casa sua, agganciata in un piedistallo di quelli per... E avevo fatto la modifica con una staffetta L e c'era dentro casa sua. Ma attaccata alla mantova non va, perché io avevo comprato la, come si chiama, quella zampa per mettere le paraboliche con la L, ho comprato una di quelle, l'ho agganciata al tubo sotto la mantova, l'ho agganciata e non va bene, mi dà... Non riesco né a uscire né a ricevere. Io ce l'ho così lo stesso, se tu passi la guardia ce l'ho la stessa cosa io. Secondo me è per quello che l'antenna non va bene, quella X500, perché è troppo attaccata alla mantova, capito? Quindi bisogna che la sposta, bisogna che faccio i fuori dalla parte opposta e vabbè, prima voglio trasferire il tubo, la mantova dall'altra parte da dove è adesso, perché è molto più sicuro. Poi al limite dove c'è la parabola ci piazzo l'antenna della V e della U. Ci vediamo se distante 2 metri funziona meglio, dovrebbe funzionare molto meglio. al limite mi metto un paletto da 3 metri ci dovrebbe andare bene. Ma io l'ho spostata a 3 metri, l'ho spostata dalla manco qua, gli ho messo un palo, quel palo telescopico delle antenne TV, ho comprato uno di quelle, gli ho messo uno di quelle, li ho messo e funziona benissimo. E allora il problema è per quello che senz'altro. Perché c'ho la gaffa, quella a pipetta per le parabole ed è proprio agganciata lì, dove c'è il tubo della Mantova. Se tu passi in macchina, la guardi, già si vede da giù. E poi sotto quella c'ho la direttiva. E pratica rimane aperta, cioè non c'ha nulla, né davanti né dietro, capito? Capo, no, già li ho visti, già, sono passato anche da poco, lì sono passato. Lì, quando vengo lì a fare analisi queste cose qua, a volte parcheggio lì vicino a te perché non puoi parcheggi da altra parte, allora no, ma per il fuoco mi fermo. Adesso aspetto un po' che faccia un bel tempo, dopodiché piazzo la staffa dalla parte, faccio i buchi, se la tocca in culo, mettiamo un mulattore, gli do 50 euro, mi faccio fare i fuori, i buchi e dopodiché installo il palo dall'altra parte. Così almeno sono più tranquillo, mi faccio i fuori per i tiranti in modo che il palo sia fermo, sia bloccato, poi dall'altra parte dove c'è la parabola c'è piazzo la cosa. Un paletto telescopico di quelli che vende Bricomet, cioè leggera come antenna, e sono sicuro che la verticale va benissimo. Bacchi si è sparito. Come si sente dove? Adesso sì. Sono sempre qua. Stavo dicendo. Stavo dicendo e si è sparito. Adesso il microfono sta cominciando a rompere. Adesso va bene. Stavo dicendo poco fa. Ho detto che anche io con la verticale, con la bianca per il PMR, ce l'ho sotto la mantova, funziona bene. A me mica da problemi, a Franco lo stesso, quindi l'unica cosa è la tocco a dove ce la piazzo dall'altra parte adesso. Appena fa bel tempo, anche perché tutto questo peso che ho dove c'è la parabola non mi filo molto, non sai che fai, arrivi qualche passata di vento a 120 mi trovo le antenne giù per strada io. Ci sono i tiranti, meno male, se non per un tirante ci scende tutto giù, ci scende parabola compresa. Almeno ammazzi qualche duro di sotto, qualche cadavere fai. Cadavere adesso lo faccio. Poi fosse stato il fatto che il palazzo è fatto a triangolo, quindi ci scende di piano in piano e lì ci sono i negozi di cose, già lo sai, cioè quelli che sono sempre aperti, quelli poi c'è il pane, c'è il panificio, poi c'è la farmacia, poi c'è il bar che è sempre pieno. Sono ubriaco nel bar. Va bene. Ma io ci ho fatto un braccetto, grosso da 60 cm e poi c'è l'antenna sopra. Così già va bene, me lo leggera, ma quella che ho io cazzo pesa un bel po' meno, sai, la direttiva. Cazzo pesa meno 3-4 kg pesa quella, è tutto in acciaio. Ma va regalata a Stefano, immaginati, va da 144 a 500 e fuscia. Sì, ci metti un palo bello robusto attaccato alla palette e poi chiudi a lì. No, quella ce la metto da un'altra parte, il motore lo modifico. Posso fargli, siccome è il motore di parabola quello, fa solamente destra e sinistra, gli faccio fare tutto gli faccio la modifica e gli tolgo il fine corsa, così almeno fa di più, capito? Io si gira avanti, bravo, un attimino. Io ogni tanto se ne va la portante, se ne va da quel microfono, qualche problema c'ha. Senz'altro sì. Ieri sera ho agganciato. Nel telefono di stasera ci ho messo quella specie di aggeggio della Midland, cazzo. C'è un tipo che si chiama, aspetta. Fancuffia, non mi viene in mente il nome, cazzo. C'ha la voce da froscio, sembra una donna, sembra. Quando l'ho sentito a terra mi sembrava qualcosa, succede il mattino. Hai giocato cazzo che voce sensuale che c'è. Invece era un maschio. scappa. Scusa appena, Antone, che Santa mia moglie mi sta dicendo cosa, ma tu? Ehia, va bene. Allora già te l'hai applicata anche tu la cosa, il sistema guida, Antone, quello che ti ho detto. L'ho agganciato, a mio fratello l'ho agganciato ieri, solo io non sono riuscito. Né su quello ho andato meno sull'altro perché devo fargli l'aggiornamento, capito? Delle app nell'occhio. C'ho Zello, però mi manca l'altro, quindi devo fare l'aggiornamento delle app. Però è bellino perché sono. Ho fatto la stazionata su 40 canali normali, poi sono andato sugli Italia 1, Italia 2, Italia 3, eccetera, eccetera. E c'era una volta, mi sembra, su canale 5 o su 2, in pare che era, quello lì, dove c'è un ragazzo che c'ha una voce allucinante, sembra una donna, sembra. Già lo so, ce ne sono diversi, sempre quello quando è ieri, no, avanti ieri, ci stavano bisticciando sul canale 8, su Italia 8, e poi ieri c'era l'amministratore, quel Gianni che stava, cioè perché c'era gente che si è lamentata e lui naturalmente stava dando spiegazioni, ma devo dire che nel settore gruppi non mi piace più di tanto, è la verità, troppo macello, troppo affollamento, eccetera. Caso poi è bello nel settore canalizzato, quello sì, dove appunto andiamo noi, quelli di Sassari, andiamo lì, andiamo sul settore canalizzato, canale 1 sempre, e ci troviamo lì e va benissimo, per noi va bene, che quello si canalizza ai 30 km e funziona benissimo. Anzi, devo dire che la Midland sta lavorando per allungare il raggio a 100 km, si può immaginare, va bene, va bene. L'ho provato a canalizzare, ma non c'era nessuno, controllate, erano le 8 e mezza di sera, figurati, ma con cani. Invece dall'altra parte c'era gente parlando e ti ho detto, stavo spazzolando, ho sentito questa voce, cazzo, mi sembrava la voce di luce del mattino, invece era un maschio, figurati. E poi in pratica si stavano lamentando perché sono entrati due tipi che in pratica si stavano bisticciando cose del genere e a quanto sembra vogliono fare mandare una lettera alla regione per fare la ricerca anche su quell'apparecchio lì, in modo da mandare, cioè che non entri gente del genere, capito, a rompere le palle, a parlare male. Quindi in pratica se c'è la licenza puoi usare l'apparecchio, se no niente da fare, cioè puoi usare quel tipo di cose, di app, se no niente da fare. Sì, no, ma il discorso è questo, se lì uno si comporta male, se è qualcuno che viene bannato subito dalla Midland, per cui quello non parlerà più. Se uno si comporta male verrà subito eliminato e quello non potrà più entrarci, proprio perché parla male, viene subito bannato così. L'hanno già fatto a un po' di persone, quelli che si comportano male non potranno più entrare perché li elimina, la Midland stesso li elimina, capito? Avanti Mattia. La nuova legge. Un attimo Antonio. Bene, mandarli via. Sei maleducato, state a casa tua, non dovrò per i piedi mica gli altri. E ce ne sono parecchi. Ce ne sono parecchi ancora, ma li vengono eliminati, a uno li fanno fuori tutti. Scusa un attimo che sei anche Franco. Lo so Mattia, però è così, no, c'è gente un pochino maleducata, però noi poco si interessa, intanto noi abbiamo deciso che se ci dobbiamo sentire, noi di Sassari ci dobbiamo sentire sul canalizzato canale 1. Avanti Franco, scusa. Capo. No, tu l'hai sentito stasera ne hanno buttato fuori due, tutta la Midland, sono entrati gli amministratori e gli hanno preso i numeri e in più il numero di telefono e l'hanno mandato a chi è di dovere e anche se entrano con un altro numero diverso non entrano lo stesso, perché si hanno proprio azzerati a quelli lì, perché c'hanno adesso nome e cognome dopo c'hanno. Sì, Franco, Gianni Sorsi, no, perché ieri c'era quel Gianni, l'amministratore, e c'era un paio di persone che si sono bannate, infatti lui aveva segnalato alla Midland e venivano bannati proprio per quel motivo. Lo so, sto parlando con Graziano anche in PMR, perché si era sentato un attimo e allora sono entrato di nuovo qua. Mi prendi pure Batti, vai, mi torno a parlare con Graziano, che si era assentato un attimino. Sì, anche Giulio, dice Graziano che attacchi il piedicoso, la 27, non è PMR, lì è cosa facile vuole a fare, ma un drone pulivo è diventato. Dai, è così. Ci voleva un amministratore quel periodo che entravano tutti quelli nuovi che parlavano male. Voluto anche qui. Allora, Marco Cani, figurati. Oh, Giulia. Andare avanti fa. Questi deve essere due ragazzi che hanno cacciato così l'applicazione. E si sono messi lì a rompere le scatole della gente, capito? Si sono messi. Però se ne incontrano uno di quelli in vicinanza, non lo so se fanno tanto gradasso. Anche perché quello uno aveva deciso di andare a picchiarli. Beh, c'è rara, mi c'è proprio da sbagliare, tu dici che sono sì, non è che sbagliare molto. Ho visto che chiunque parla, cioè prima ci sono le palline verdi, dopodiché quando sta parlando si illumina di rosso e ti dice più o meno dove sta modulando, dopodiché metti il radar, cioè metti la radar, come si chiama, come le Google Map, ti dice che via è proprio, tutto, perché l'ha provato mio fratello ieri, tutte quelle funzioni lì, non sbagli, quindi ti dice in che via proprio ti trovi e lì ti butti. Sì, infatti è quello. E poi quando loro si fanno un concetto, mi dicono che se non è yoga c'è il nostro numero di telefono, perché se non è il tuo telefono, del numero, se non è del telefono che tu metti l'applicazione, non ti fa accedere, capito, all'applicazione, perché vuole tutto il numero di quel telefono. Sì, a me l'ha chiesto, mette il numero del telefono e poi il nominativo, cioè il nominativo del nome, ci ho messo con il mio fratello e la fotografia addirittura. Quindi ma l'ho fatto nel telefono suo, nel mio non sono riuscito a fare nulla perché c'ho la Google Play bloccato, capito? Poi stamattina sono uscito 5 minuti per provare con Nokia se riuscivo a scaricare le cose, invece devo fare l'aggiornamento, perché nel Nokia viene molto meglio, perché c'è Windows 8, capito? Devo fare l'aggiornamento, solo c'era un freddo giù in strada, perché non c'avevo in pratica era scarico di carta, allora stavo cercando il segnale wifi più vicino e mi ha giovigliato un freddo. Hai capito? Mi trovavano le mani tu la fai dove c'era la fa cuffia. E ci sono due segnali molto forti che sono di fronte alla pasticceria. Capito, le parto di fronte. Ecco, avanti, Marti. Sì, allora io chiedo permesso di QRT perché mi stanno chiamando da sotto. Bene, ciao Antonello, buona serata, buona impressione ancora. Ciao Fra, alla prossima, grazie delle quattro chiacchiere. A domani si coincide, Marchisio in QRT, riprendi Franco ancora. Ok, ciao Marchisio, buona 140, buon QRT, buon tutto, ce la riascoltiamo alle prossime linee e buona carica quando lo farai. Ciao ciao. Ciao Bacchi, ci sentiamo, buon quiretti, buon tutto, buona cena e alle prossime, avanti fa. Quindi sta sendo poco e niente allora adesso. Ma poco ci sto salendo, non è che è un giorno di vuoto. Alla fine non ho, a volte capita che io vado a fare cose così lì vicino a te, oppure vado, anzi no, mi da poco sono andato all'Impis e sono passato proprio lì di fronte a casa tua, perché a me mi viene, a fare il giro mi viene più facile, mi viene, perché dopo viene tutto dritto per entrare all'Impis. E basta, se no dove vuoi andare? Ah beh, per andare lì se ti conviene, sì, fai il quadrato, dal quadrato passi davanti a casa mia, fai via Milano, poi una volta che sei arrivato lì al semaforo a Monserrato, giri e cioè, giri e direttamente là dentro sei a posto. Una volta capito, ti viene anche più facile. Perché fare il giro dall'altra parte da Italia e ti trovi il Ciavilla, secondo che là è. No, dall'altra parte se tu giri entri in Sassari, poi giri via Italia. Realizzare anche stare a salire su tutto è un magazzino tutto serrato, ogni 10 metri c'è un serrafano lì e cosa guardo devi essere fortunato se non trovi il traffico, se non trovi il traffico va bene, ma se no lì ci metti tu una mattinata a fare tutto quel giro lì, mentre dall'altra parte è più aperto. Sì, quello sì. A parte la mattina lì, a Monserrato ci sono le scuole, ci sono, e allo stadio a mezzogiorno e mezzo alla una cominciano a uscire gli studenti lì e beh, ci sono i vigili urbani, bloccano tutto. Quindi anche per quello non conviene passare da lì. Conviene passare dall'altra parte che ti viene molto più veloce, tutto fa il quadrato, ma se non sia lunedì, per dire, lunedì lì al quadrato c'è quel casino per la questione dei cusi, della gente che vende, quindi è un bel casotto. Poi gli altri giorni è tutto libero, per dire, non c'è nulla, non c'è un tubo di auto né di nulla. Ma ti dico che sono passato anche quando c'era la piazzetta lì a quadrato e ti dico che la strada è libera perché la gente va bene, ci sono i parcheggi delle macchine fa una parte all'altra, però il passaggio è libero e passi normale lo stesso, passi, non è che ti impedisce niente lì, ti impedisce. Vabbè. Io a me piace una farmela fuori e arrivare, magari faccio un chilometro in più, però è più libero. Sì, quando c'è il mercatino comunque è un casino. No, ti credere. Se vai verso le 9 trovi poca gente, quando comincia a essere di 11, mezzogiorno, mercatino, lì si comincia a riempirsi, gente che si mette in seconda fila, eccetera, eccetera. Se cominciano a mettersi in seconda fila è già un po' un bel problema lì, perché non passano. Però, dai seconda fila è proprio da tutti a mettersi lì. Perché a parte non fai uscire le altre macchine dai parcheggi, non fai uscire. E blocchi il traffico così. E infatti, potevano aprire, per dire, la strada lì dove c'è il tappetino, quelle palazzine le ultime che hanno costruito, da lì facevano la strada dritta dal tappetino direttamente vicino a dove lavori tu, sboccava. Sarebbe stato un buon posto, sarebbe stato in pratica si sarebbe evitato tutto quel casino che c'è lì quando c'è il mercatino al quadrato. Ecco, andrà bene, vedi, lo sapete che MR, che gusto. Allora, ma cosa c'ha? Hanno metterci la 27, aveva sempre la 27, ma non è che si è venduto tutto. No, c'era la 27. Solo che lì adesso in pratica sono loro vicino al lato, tutti con gommino, capito? Quindi si sentono tra loro. Io ho difficoltà a sentire tutti. Graziano, secondo in che punto si mette con gommino, non lo sento neanche l'antenna esterna usa. Quindi tra loro lì vicino c'è Luca, c'è Gio Maria, c'è Graziano, si sentono tra loro e quindi sono più di 5-6 persone. È come che io abito qui, siamo tutti con gommino, qui a Carbonazzi, cosa vuol dire? Carbonazzi, Dune Sole, per dire lì a Teloce non ci arriviamo. Hai capito? Quello sì, è ovvio che non ci arrivi qua. È un po' più distante, magari. Tu pensa, vabbè, diciamo che con gommino io dove lavoravo io prima mi mettevo nel piazzale dove scaricavo il materiale, caspita, là mi prendevo tutto, addirittura ascoltavo anche a Giulio, perché Giulio non l'ho ascoltato, dall'altra parte del campanone non l'ho ascoltato, me ne andavo in quel piazzale e lo ascoltavo in pieno, lo prendevo. E così ascoltava tutti. Sì, se me lo ricordo, arrivo a segnale 9 me, allo Iaeso, se lo ricordi che usavo lo Iaeso io, quello, il quadribanda per poter parlare in PMR. Ascoltavo a tutti, ascoltavo, a te ti ascoltavo molto forte, figurati, segnale 9. E se no a Marco Condo, lì se andava lì a Balai e lo sentivo tranquillamente, a 9, 9, 10 come segnale. Poi a che cosa, quello che c'aveva il prototore, che non ho più sentito neanche a lui, al baracchino, anche lui lo accompagnavo qua alla stanza sino al prototore, bello tranquillo. Ehi, aspetta, vabbè, quella radio, una bella radio, c'aveva un bel po' di potenza anche. E l'ho messa in scatola, cosa? Per usarla, cioè, per usarla qui, metterla qua sopra. C'ho il Saturn Echo, c'ho il 2009, c'ho la 87, aveva la volta poi mi chissà sopra, c'ho anche con il 4000, il 27 è sprecato, capito? Allora ho preso, l'ho messa in scatola, se no l'avevo usato un mese e mezzo, già lo sai, che tu non è che sia in PMR sia in 27. Ho deciso, ho detto, per rovinarsi, ho detto l'apparecchio, ho detto preferisco di metterlo in scatola, ho detto come era prima, che dove ci sono tutti gli accessori, anche per stare in macchina non gli manca niente. L'ho messo in scatola, l'ho messo dentro l'armadio. Allora uso questo, ho i 4 PMR, ho gli 88, ne ho 2 e più ho i Baofeng, quelli normali. Ma io c'avevo uno di AIS, me l'ho venduto, quello lì, un nuovo nuovo, l'ho usato, ma neanche un anno l'ho usato, era ancora in garanzia, me lo aveva, e usciva benissimo quella radio, usciva bene, aveva 50 watt, c'aveva in PMR, ed era perfetta, anche ricezione era bello. E poi me l'ho venduto, e mi sono tenuto, sono ricco, mi sono tenuto, è buono. E cosa ne fai tanti apparecchi? Domani mi... Se continuiamo così ci sarà un'applicazione anche per andare in PMR, anzi vabbè in PMR c'è già, c'è Zello, ma se vedrai che la Midland non farà solo per dire quei canali lì che si è inventato, se è stato farà anche tipo PMR per dire tipo frequenza di radioamatori, roba del genere, quindi non ci sarà più bisogno di usare i punti. Usi il telefono, quindi gli fa vedere con chi ti parla di piazzi. Ormai adesso che gli fa poco c'è i famosi punti 5G, vedrai cosa si inventa la Midland. Le baracchine non le farà più. Usciranno i telefoni, quando parli ti verrai di persona per dire ci saranno i canali, eccetera, eccetera, per parlare con tutto il mondo. No, ma sicuramente le bande radioamatoriali come 7000 e quelle bande lì non le farà la mia, perché è un controsenso ai radioamatori, capito, che hanno studiato per la patente, è un controsenso. E non penso che faccia una cosa del genere, e neanche VHF né niente, non lo farà mai. Ma secondo me per questioni di cose, vedrai, quello 5G si inventeranno qualcosa, non ci sarà bisogno di patente di nulla, già l'hai visto anche con i motorini, adesso a posto di esserci motorini a benzina ci sono motorini elettrici. Figurati tu, ormai se ne inventano le cose, più di guardato hanno già capito che i baracchini non li vendi nei biumi, quindi si stanno inventando queste applicazioni, magari lo Stato italiano si farà pagare qualche tassa per una volta che ti sei messo questa applicazione e ci guadagniamo da quello, lo Stato italiano, capito? Quello non è roba loro, dello Stato, questa non è roba dello Stato, questa è roba che ha fatto la Midland, per me questa è una pubblicità, non è altro. Vabbè, la pubblicità quello che vuoi, però se funziona bene eccetera eccetera, capito, vedrai che ci metteranno, cioè adesso è così una cosa analogica per dire, poi lo faranno, ci metteranno in modo che vedi la persona con cui parli, capito, e quindi sarà una cosa totalmente diversa, tipo diventerà tipo solide, tipo Facebook. La gente eliminerà Facebook e userà i telefoni così per poter parlare con gli amici in diretta, capito? Ecco, ma io sono del parere che questa dovrebbe essere la migliore. Sì, vabbè, la frequenza originale certo che è la migliore. È bella, sì, cioè la 27 è bella, non è mica brutta. Il fatto che oramai è abbandonata, capito, perché la gente si è preso il computer, usa Skype, usa Facebook e cose del genere, e quindi dato che non ci hanno più vendite, siamo invitati a questa storia qua, capito, se vedono tutto che va bene, che c'è un tanto di persone per dire, allora vedrà che modificheranno l'app e la possibilità della fotografia, magari ti vedrà anche di persone, cioè ti vedi direttamente nel monitor, capito? Tipo Skype. Quindi parli e vedi la persona. Immaginate, io ho sentito ieri sera questo tamburello, sembrava la voce della donna, sembrava la luce del mattino, ho detto che voce che c'ha questa donna, invece era un maschio. Ha detto anche lui, dice, guarda, dice, io gli hanno chiesto se metteva le corna, dice, io le metto tutti i giorni le corna, da lì ho capito subito che questo era un transeme. E allora cos'è? Un transe? Un po' qualche lui gli piace modulare, è entrato nella canaletta, si è messo il tamburello, è come dire, lui parla, non chiudo il tamburo. Ti sto dicendo che io mi sono messo a ridere quando l'ho sentito, ti giuro, una voce da donna ma sensuale. Ho detto a Gian Piero, a me mi sembra donna questa, non è possibile, cioè è stato che si abbia messo il mio tamburello, ed è il maschio, perché quando sono andato per guardare nelle funzioni, si appare la fotografia, si è messo anche la foto. La foto è vestita da maschio tutto. Esatto, sì. Abbiamo visto, infatti l'ho guardato. Ed è un maschio, un travestito, purtroppo ci sono anche quelli, quindi, però c'è un coso, si comporta molto molto bene. Sì, come guarda, come ragazzo è molto educato, mi deve essere anche giovane, io penso che ci abbia più di 20 anni. È molto educato, parlando, ti giuro, sono rimasto all'invito. C'era il fratello che stava ascoltando, io disse, poi intanto questo di Cagliari mi ha fatto ridere, ma intanto entravo e faceva, sì, c'hai ragione, poi si sente quando vuoi di Cagliari. E molti entrano con la scusa, a volte di prendere quel culo, oppure si trovano lì e ci rimangono a parlare, perché è una persona abbastanza educata, non parla male, se c'è qualcosa da dirti te la dice subito, e così è, perché così non può essere una persona, perché in confronto ad altri che sono un bel maleducati, per carità, quel canale dove si stavano giocando stasera, guarda, lui per carità quel canale 15 voleva preso e chiuso. No, non ho ascoltato stasera perché la cosa, l'app l'ho messa a mio fratello, io non sono riuscito a mettere niente, adesso devo chiamare mia nipote, siccome mi ha messo Play Store con l'account suo, capito? Devo farmelo cambiare, se no non mi fa accedere nella rete telefonino. Stavo provando stamattina, te l'ho detto, con Lucia e nelle app che c'avevo vecchie non risultava, mettevo un video e ci pizzava che nulla da fare, non lo riconosceva, quindi devo fare l'aggiornamento a tutte le app nuove che ci sono. Una volta che trovo quella, prendo e me la scarico in automatico, capito? Perché Nokia è come il computer, io lo sai, il Lumia, c'è Windows 8, c'è. Non ho neanche fatto l'aggiornamento su Windows 10 perché non mi ha fatto nulla. Ancora il Lumia c'è? Sì, c'è il Lumia, quello arancione. C'è ancora quello nuovo, con la scatola e tutto, figurati tu, ma con grafio c'è. È un demonio quel telefono. Ma gli aggiornamenti li sta facendo? Dice che non li facevano più quelli, gli aggiornamenti. Sì, che li fanno. Stamattina mi ha passato a me la dicitura per fare l'aggiornamento da Windows 8 a Windows 10 in automatico, infatti l'ho rifiutata. Anche perché Windows 10 è molto in pratica è molto più difficile da usare, capito? Mi incasinerei, quindi l'ho lasciato Windows 8 come l'originale e basta. Sono un anno che non uso quel telefono, anche perché avevo pigliato l'altro nuovo, capito? L'LG, il K4, ne ho due, uno da una casa e uno dall'altra. Ecco, no, non l'ho avuto anche io il Lumia, non l'ho avuto. Adesso non mi ricordo qual era quello che c'avevo io. Non me lo ricordo qual era. Si grava il tablet. Io avevo un coso da poco, il come si chiama? La Wii c'avevo, il Pioto, quello lì l'ho messo da parte e mi ha preso l'iPhone, è molto meglio della Wii anche l'iPhone. È vero che è molto veloce, non si blocca mai. Invece l'altro ogni tanto mi si bloccava e mi dava fastidio. Così ho provato questo sembra che anche se gli metti 200 foto dentro, 500 foto non gli fa niente, neanche la grinta. No, le luci si blocca, quello che c'è lui si blocca, il K4 si blocca, devo metterci la memoria espansiva. Se li metto, infatti le ho cancellate, tutti i messaggi di WhatsApp avevo cancellato, che c'era, sai quanti me ne mandava Roberto per i capelli, messaggi, fotografie di ragazze nude, di tutto mi mandava, filmati porno, ho dovuto cancellare tutto, sì, c'avevo la memoria piena, non andava più, si era tutto incasinato. Sì, dovevi cancellare, perché se no non si incasino. E come io con la Wii, e alla fine mi ha fatto memoria piena, mi ha fatto non voleva più camminare, finché io non l'ho resettato, capito? E l'ho portato a livello di fabbrica di nuovo, l'ho portato. Certo, se non riesci neanche a farlo camminare. Vabbè, i tipi che sono usciti erano quelli che erano. Adesso la vista li hanno modificati e c'hanno la telecamera allucinata e ti fa tutte le foto, sembra che siamo nel vero, capito? Hanno aumentato la memoria, ci puoi metterci, puoi fare tutte le foto che vuoi, non succede nulla, non si blocca. E quindi è un colosso quello, mi è diventato. L'unica cosa magari è la batteria che non serve a niente. Meno male l'hanno rinforzata e l'hanno messa una di quelle batterie grosse. Chi so l'ha già parlato, lo fumo. Capo, no, la Wii non è la batteria esterna, non è che la puoi cambiare così. La Wii ce l'ha interna, come Lumia. Lumia lo stesso, ce l'ha interna. Vabbè, quello che c'ho io ce l'ha interna, la posso cambiare la batteria, la posso togliere, mettercela, non è un problema, ma ci sono certi telefoni che è un casino a togliere la batteria, sembra la batteria come si chiama, del tablet. La devi portare all'assistenza, è come l'iPhone devi portare all'assistenza se capita che la batteria non va più, devi portare all'assistenza direttamente, lo devi portare. Figurati, quindi c'è la batteria agganciata direttamente allo stampato, là, come il tablet, è un casino. Infatti il tablet devi riparare per forza in assistenza se lo vuoi riparare, perché di solito si crepano le batterie, quando cominciavo a usarlo, che cominciavo a usarlo ore, sì, quella batteria diventa morbida, sembra che ci sia acqua, anche più che acqua, gel dentro, capito? Si gonfiano e non fanno più. Scusate, vi saluto, dai. Saluti anche da parte di Graziano, ci sentiamo dai domani, io ero sempre con lui sul PMR, perché abbiamo iniziato lì e non lo potevo lasciare da solo, perché lui non aveva attaccato il baracchino, per cui non poteva entrare nel 27. Ciao Franco, a domani ci sentiamo. Ciao Antonello, Bacchisio e tutti quelli che sono all'ascolto. Ciao Tore, se ci sei ancora, eccetera, eccetera. Ci sentiamo a domani, ciao, vai Franco. Ehi capo, vai. Ciao Giulio, ci raccontiamo per le prossimine, dai. E niente, no, Tore e Bacchisio hanno chiuso. E Tore non so dove è andato, però probabilmente ha chiuso. Comunque, ciao Giulio, buon corretto, buon tutto, ci raccontiamo le prossimine. Avanti, ciao Giulio, ci sentiamo a domani. No, non ti preoccupare, non succede niente se parli in PMR e non parli in 27, non cambia nulla, non è che succeda niente. Sì, ci mancherebbe. Se usiamo uno, si può anche usare l'altro volendo, non è che sia questo grande di differenza. Andrà bene, ci vediamo domani. Salute a Graziano, se è stato già lo senti lì. Avanti fra. Via. Comunque sono bei telefoni quelli lì anche, come la UE. Ah, ti stavo dicendo. Allora, quei telefoni lì, come l'iPhone, l'Lumia, ci sono due tipi, mi sembra, di Lumia, che devi portare l'assistenza e quando ti cambiano la batteria ti cambiano anche il monitor. Sì, no, buona, tutto incollato, Sì, perché mio fratello si è guastato Lumia e adesso non mi ricordo se aveva il P9 o cosa ci aveva, e ce l'ha ancora. E si è gonfiata la batteria, si è gonfiata come tutto poco fa, l'ha portato e l'hanno mandato in continente alla casa, l'hanno mandato e gli hanno cambiato sia la batteria compreso il monitor, tutto il monitor li hanno cambiato, infatti gli hanno mandato un foglio e tutto quello che hanno cambiato, tutto quanto, tutta in garanzia, però gli hanno fatto, che è rientrata. Ah, la garanzia è rientrata perché dovevano cambiare anche il monitor, se non cambiavano il monitor la garanzia non entrava, cioè la batteria non entrava in garanzia. Ah, ho capito. Evidentemente succedeva prima, vendevano i telefoni e dopo un mese e mezzo, anche due, secondo come lo usavi, si gonfiava la batteria e ti scoppiava dentro la tasca dei pantaloni, se usciva tutto l'acido ti bruciava. Infatti li avevano tolti dalla vendita per quei telefoni, capito? Anzi, come le auto in pratica, li prendeva la fabbrica e poi li faceva la modifica. Già me lo ricordo quel fatto lì, un sacco di telefoni rientravano perché c'avevano quel problema, perché scoppiavano e cose del genere. O se te li mettevi in tasca, per dire, dopo che l'avevi appena ricaricato, gli avevi buio fuoco, non so altro. Uno di loro si era bruciato perché i jeans non avevano preso fuoco. Sono pericolosi quando scoppiano. Ho sentito anche che gente che li hanno messi a caricare sotto carica sono esplosi e hanno fatto anche danno. Non è poco, è pericoloso avere vicino un telefono, specialmente quando si è a letto e ce l'hai vicino, e prove. No, a me meno male non mi è successo, nelle regie, nel Lumia non mi è mai successo, ma parecchia gente, nel Samsung mi sembra che era successo una cosa del genere, infatti li avevano modificati, mi sembra che nel Samsung che c'aveva quel difetto di batteria, se non mi ricordo male. Sì, non mi ricordo quali modelli erano nella Samsung, e poi forse erano Ma se sì, mi sembra che era, non mi ricordo bene qual erano, perché io avevo preso le 6-5 e tuttora sta andando bene, sta andando. L'unica cosa che ho fatto, in pochi giorni fa, gli ho cambiato la batteria, gli ho cambiato il telefono di mia moglie. Ed è sempre una bomba, l'S5. Appena uscito quello era allora. I Samsung, mi ricordo adesso, erano i Samsung, erano difettosi di batteria, infatti li stavano tutti in pratica modificando per un motivo lì, perché a uno addirittura gli si è scoppiato dentro la tasca e ha pigliato fuoco con l'accio della mano, è uscito dentro la tasca, gli ha bruciato tutta la gamba, l'ha bruciato, figurati. E non sai che ci siano prendono fuoco, ma con l'accendino. Ma intanto ha avuto un stile di terzo grado questo. Da quel giorno infatti li avevano tutti controllati bene, modificati e cose del genere di batteria. Infatti avevano detto che c'era il Samsung di portarlo immediatamente all'assistenza per fargli cambiare le batterie, perché erano uscite non so quante batterie difettose, era pericolose anche di notte, perché si scoppiavano cosa ridda era. Sì, mi ricordo che avevano fatto tutti quelli che erano fatti in quel periodo, venduti, dovevano rientrare tutti alla casa, dovevano far rientrare, li stavano ritirando a uno, e quando uno andava, dicevano, per dire, quando vedevano il cellulare lo cambiavano direttamente. E beh, qual è? La corrente? Sono rientrato. Ah, si è allontanato, cosa ha detto? Ma la corrente gli è mancata. No, sono rientrato. Me la stavo facendo addosso, sono andato veloce in bagno, se no me la... mi portavo il vasino negli occhi. Ecco, qualche quello ci vuole. Sì, mi sembra ricordo di... quando avevo 20 anni, mi portavo anche il piatto in camera, mangiavo con il microfono vicino, figurati tu, non riuscivo neanche a... quando andavo a modulare, modulavo, sì, via. Cazzo, quasi le 8 sono. Bella. Qualche giorno che ho tempo, ora ti porto una cosa, ti porto, vedere se riesci a mettermi in linea. E quando vuoi, già sono qua a casa, non ci sono problemi. Ciao che no, che so, gli andiamo un fuoco l'acqua da casa. Indiante, quando andare a passeggio c'è quel casino che c'è a Sassari. Adesso mi hanno sbloccato, ma la mano questa storia del RS, a quanto sembra vogliono assumere, capito? Vogliono assumere dove? Le persone che sono disagiate, in pratica vi fanno fare il contratto di formazione, assunzione in qualche ditta oppure volontariato, basta che la vogliono, capito? Si pagano tipo un lavoro socialmente utile, hai capito? Sì. Io dico questo, cioè, non è perché. Una persona, una volta che tu gli dai qualcosa, stato il comune di solito dà sempre qualcosa a una regione, dà sempre qualcosa a questa gente che è messa male, cioè che è disagiata proprio. A parte di dargli questo sussidio e fargli rimanere a casa per i cavoli loro, quindi mettigli e li fai lavorare a tagliare erba nelle colette, a fare questo, a fare quell'altro, che c'è tanta roba da fare, a mettere a posto i giardini, a tenere conto di queste cose, e non è uno stipendio. Non dico di dargli 3.000 euro, 2.000 euro, ma dagli almeno 1.000 euro, ma almeno se li stanno lavorando. Sì, io lavoro l'ho già fatto, ma non è che mi davano 1.000 euro, no, 300 dovevo fare 3 volte a settimana, 3 ore, capito, 3 volte a settimana, mi davano 300 euro, poi siccome ci avevano messo anche i drogati in mezzo, non è che andavano a lavorare, quindi se ne battevano le balle, facevano buongiorno, buonasera, e se andava, per dire il 15 andavano direttamente lì alla banca, allora, al Banco di Sardegna, e si ritiravano i soldi, capito? E noi come imbecilli lì lavoravamo a tagliare l'erba, a coprirci spogliatori e cose del genere, senza essere assicurati di nulla. Sì, ma la colpa di chi è? La colpa di chi amministra quelle cose lì, di chi gestisce il lavoro. Allora, quando gestisce il lavoro, doveva dire, no, dove stai andando? Devi venire qua a lavorare, devi venire, non devi andare via. Se no, pago male, fuori, e non bisogna manco di nato. E invece a me mi sono capitati due, venivano la mattina lì a tagliare, per poter tagliare erba, c'era presente quelle le, tipo pianta di rosa, mi, che erano pungenti, lo sai come i guanti come ti ribuccava quei guanti grossi. Eppure io quel lavoro me lo sono fatto, però mi divertivo almeno, passavo tutta la mattina per dire, quando una volta che finivo pensavo a una con un collega mio, andavamo lì all'ipodromo, c'era il bar da una parte e il circolo dall'altra, andavamo al circolo e ci bevevamo, un giorno la invitavo io una birra, un giorno lì la mattina la invitava lui, per dire, però passavo l'ora, mi divertivo, sudavo, mi potevo tranquillamente parlare, fermarmi 5 minuti, lui si fumava la sigaretta, non ti diceva nulla nessuno. Dell'ipodromo sembrava di lavorare al comune, cioè pensa che al comune tre lavoro, gli altri 15 ti guardano, così era. Ma è sbagliato, però così è sbagliato, perché i soldi che prende quello che sta lavorando li prende anche quello che sta guardando e li prende uguali. Se c'erano di casse integrati, c'erano delle che lavoravano di lì, sai cosa facevano? Usavano il trattore, andavano al bar, prendevano una cassa di birra e se la mettevano nella legnaia che c'è di lì all'ippodromo, capito? C'era la legnaia, la mettevano dentro, loro d'estate ogni giorno la birra bella fredda, facevano mezz'ora di lavoro e mezz'ora di bevuta, ci passavano ogni giorno la cassa della birra, ogni lì andavano, prendevano una cassa di birra e se la bevevano, i quattro. Io lo credo io. A lui a passare le ore, a passare l'ora lì così. E come, anzi, magari dici, magari ti dicono anche, stiamo per andarcene. Sì, sì, era così, facevano, mettevano a posto qualche paletto, con il legno, facevano qualche manutenzione, capito? Poi andavano lì alla legnaia e ci riunivano bevi tranquilli bevendo la cassa della birra. Io li ho visti e ho detto, cazzo, te le immagini, ho detto, sì. Quattro scemi allo stadio, io sono scemo, gli ho detto che deve lavorare, questi qui sono i fotoverbali perché sono iscritti, si ritirano la cassa integrazione e in più anche i soldi che gli dava il comune, hai capito? Due stipendi. Ma la colpa del comune anche, che se no quello lì non l'avrebbe preso su, perché si avrebbe avuto un dirigente che avrebbe controllato bene, avrebbe detto no. Ma funziona così, se volete lavorare è buono, se no la porta è quella. Poi non li controllava nessuno, te lo sto dicendo, non li controllava nessuno. Io ho lavorato lì 3 mesi e andavo lì, gli faceva fare pitture, faceva pitturare le scale, pitturare i pareti e roba del genere, per dire, oppure raccogliere la carta che buttavano i ragazzi che entravano, o raccogliere la tina quando c'era la corsa dei cavalli la domenica, per dire. Il lunedì mattina raccoglievamo la roba, eravamo in due, capito? Andavamo fino dove c'erano le stalle dei cavalli, figurati tu, quindi facevo tutta la strada dell'ippodromo fino ad arrivare dove sono i cavalli, che poi facevamo il giro e passavamo dall'altra parte. E quindi passavamo andavamo con la carriola, poi sistemavamo, per dire, pigliavamo la terra da una parte e la mettevamo dall'altra. Questi invece se ne fattevano le balle. Ogni anno, una caccia di birra. E in quattro a Bersa, eh? Non casino. Va bene, allora dai, ti lascio che stiamo andando a mangiare. Sentiamo tutte le prossimine. Ehi, d'accordo, là, ci sentiamo al limite domani, fra, se ci sei. Buonanotte, buon tutto e buona cena. E io, ciao ciao. Tanto, vabbè, la sera a quest'ora ci dovrei essere sempre, a meno che non sono fuori. Sentiamo, ciao. E io, ciao, ci sentiamo domani, ciao ciao.